Friuli nel mondo. Saluti dall'Africa. 31esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il primo saluto è affidato a un'orchestrina di nostri lavoratori residenti a Umkomaas nel Natal, Sudafrica. La musica suggella l'inaugurazione, avvenuta nel gennaio scorso, sui pennoni il tricolore italiano accanto alle bandiere inglese e sudafricana, del grandioso complesso per la produzione della cellulosa tratta dall'eucaliptus, ideato e realizzato dalla SNIA Viscosa per iniziativa di Franco Marinotti e in collaborazione con due società affini, inglese l'una, sudafricana l'altra. La sala del municipio del nuovo paese industriale, che sorge a 30 miglia da Durban, contiene a stento le persone accorse, le quali sentono l'orgoglio dell'opera compiuta in 2 anni di studi, di esperimenti, di sistemazioni stradali, ferroviarie e fluviali, in appena 20 mesi assorbiti dalle costruzioni edilizie e dall'installazione dei macchinari. Si può dire che nell'aria della tiepida sera estiva permanga ancora l'eco degli elogi che durante la cerimonia inaugurale hanno esaltato l'ingegno e la laboriosità di nostra gente, tanto più graditi in quanto pronunciati da personalità straniere, fra cui il governatore generale dell'Unione Sudafricana, davanti a una folla di invitati. Il complesso della South African Industrial Cellulose Corporation di Umkomaas è costato 8 milioni e mezzo di sterline, pari a 14 miliardi di lire, e produce giornalmente oltre 100 tonnellate di cellulosa che viene avviata in Italia e in Inghilterra. Ai convenuti, friulani nella maggior parte, rivolge la parola Alessandro Brunetti, ingegnere e progettista dello stabilimento, direttore della SAIC di Tor Viscosa, donde provengono tecnici, maestranze e macchine. Oggi è veramente una data importante nella storia dell'industria italiana e nella storia della tecnica italiana. È veramente una tecnica specializzata quella che noi abbiamo applicato nello stabilimento di Umkomaas. La nostra società, sotto la guida del nostro presidente, per prima ha iniziato la produzione di cellulosa chimica per la produzione di raio da materie prime che non fossero le tradizionali. Con una frase magnifica il nostro presidente ha detto a volte: noi abbiamo voluto portare il segreto delle foreste del nord sotto il nostro smagliante sole mediterraneo. Da quest'idea nacque Tor Viscosa, che ha lavorato la canna, che ha lavorato il faggio, che ha lavorato l'eucaliptus, che ha lavorato la caccia e che ha lavorato tante altre materie prime in forma sperimentale. È nato successivamente Torre La Vega, che ha lavorato l'eucaliptus e che è stata la base perché i nostri amici inglesi ci invitassero qui a costruire questo stabilimento. Mentre si costruisce questo stabilimento, con un processo nuovissimo messo a punto nei laboratori di Tor Viscosa, se ne sta creando un altro di analoga grandezza in Messico. E dopo un cenno alle difficoltà dell'impresa, ai perfezionamenti tecnici apportati agli impianti, alla devozione dei collaboratori, così chiude: vorrei ringraziarvi potendolo abbracciandovi tutti, perché io oggi più che mai sento l'orgoglio di avervi guidato in questa impresa e sento la grande gioia che questa impresa è stata un pieno successo. Ai convenuti rivolge poi un saluto l'inviato di Friuli nel mondo, innanzitutto quello del presidente dell'ente, senatore Tessitori, ed il presidente della provincia, avvocato Candolini. Ma gli emigranti di Tor Viscosa, di San Giorgio di Nogaro, di Ratisana, di Rivarotta, di San Vito al Tagliamento, di Muzzana, di Palazzolo, di Palmanova e di tanti altri centri, Udine compresa, affidano il saluto del cuore all'inno che ricorda la patria, lontana migliaia di chilometri. quelle note, in quei versi evocatori del paesaggio friulano, la soddisfazione di sentirsi accolti e protetti nel Sudafrica, in case più belle di quelle abbandonate, sorte quasi per incanto nel villaggio Saikor, in vista del mare, tra sempre verdi e fiori a profusione. Bene, pochi giorni prima il medesimo inno era stato cantato in una vibrante riunione a Johannesburg. 100 voci fuse nel proposito di conservare la Marileng nella visione dei monti che fanno corona a Osoppo. Oltre un centinaio di osoppani risiedono nella città dell'oro. Emigrati di Osoppo, di Amaro, di Reana del Royale, di Paluzza, di Andreis, di Morsano al Tagliamento, nel memore affetto per la terra natia, inviano sulle ali del canto il saluto ai loro cari. Strano rumore giunge dal cortile della Duilio Scantino a Johannesburg. Qualcuno sorride. Lui, Duilio De Franceschi, osoppano naturalmente, cui si deve l'improvvisata. Niente meno che un'esibizione di danze negre al ritmo dei tantans. Seminudi, ornati di penne e di pelli, di collane e braccialetti, suonatori e danzatori si abbandonano, in onore dei friulani, a una manifestazione che ripete tradizioni che si disperdono nella notte dei tempi. Su tale sfondo anche i saluti che i nostri emigrati di Nairobi, sono di Tricesimo, di Buglia, di Maniago, di Socchieve. Custodi di una tomba gloriosa, quella di Amedeo Duca d'Aosta, inumato accanto ai prodi di una campagna valorosamente combattuta. Da Dar es Salaam, nel Tanganyika, partono sciami di saluti verso il Ciscel di Udin, San Daniele del Friuli, Maniago ancora, Sequals, con la notizia che la Casa d'Italia, disinteressato progetto dell'udinese architetto Aldo Gagliussi, è prossima al compimento, frutto dei sacrifici degli italiani residenti nella Baia della Fortuna, come la città si chiama in arabo. E saluti inviano a Vito D'Asio, Pielungo, Cordenonso, Colorado di Montalbano, Torreano di Cividale, Pravistomini, i friulani attivi a Mombasa, nel Kenya, dove stanno ultimando un lavoro ciclopico. I serbatoi dell'acquedotto, capaci di 100 milioni di litri, tutti in cemento precompresso. Progetto esecutori materiali italiani. Parentesi primitiva, veramente africana. A 70 chilometri da Mombasa, il Tsavo National Park, riserva in cui vivono allo stato libero quasi tutti gli esemplari della fauna del continente nero. Meta di escursioni domenicali dei nostri lavoratori, attivi anche in altri cantieri. I friulani di Mogadiscio sono molti. I loro saluti quindi vanno rapidamente distribuiti ai rispettivi paesi di origine, a Udine, a Gorizia, a Cormons. Di questo paese è Gualtiero Bernardelli, alto funzionario dell'amministrazione italiana. A Tricesimo, a Cividale, a Villa Santina, a Pordenone, ad Ampezzo, a Manzano, a Spilimbergo, a Tolmezzo, a Tarcento, a Moggio, a San Vito al Tagliamento. Riuniti nel Pazio della Croce del Sud, hanno voluto ricordare l'ente Friuli nel mondo con l'offerta di una pergamena, firmata dai presenti sotto il motto «I Furlans de Somalie al giornal che io ten unis». Al Cairo, udinesi e goriziani stretti insieme rivolgono un ultimo commosso saluto ai castelli delle città sorelle, lieti di affermare, attraverso la voce della radio, il loro indistruttibile amore per il Friuli natio. Risposta degna a tutti in ogni regione dell'Africa, la serenade che proprio il coro di Torviscosa, culla di Oncomas, ripete nel nome del lavoro e degli affetti di un popolo migrante, fedele al proprio focolare. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, saluti dall'Africa, 31esima trasmissione dedicata agli emigrati, testo di Chino Ermacora, musiche di Arturo Zardini,